come Angelica tosto il freno torse, che del guerrier capie venia s'accorse. Era costui quel paladin gagliardo, figliuol d'Amon, signor di Montalbano, a cui pur dianzi il suo destrier baiardo, per strano caso, uscito era di mano. Come alla donna egli drizzò lo sguardo, riconobbe, quantunque di lontano, l'angelico sembiante, quel bel volto, ch'all'amorose reti il tenea involto. La donna il palafreno a dietro volta, e per la selva tutta briglia il caccia, né per la rara più che per la folta, la più sicura e miglior via procaccia, ma pallida, tremando e di sé tolta, lascia cura al destrier che la via faccia. Di su, di giù, nell'alta selva fiera, tanto girò che venne a una riviera. In principio c'è solo una fanciulla che fugge per un bosco, in sella al suo palafreno. Sapere chi sia importa sino a un certo punto. È la protagonista di un poema rimasto incompiuto che sta correndo per entrare in un poema appena cominciato. Quelli di noi che ne sanno di più possono spiegare che si tratta d'Angelica, principessa del Catai, venuta con tutti i suoi incantesimi in mezzo ai paladini di Francia per farli innamorare e ingelosire e così distoglierli dalla guerra contro i Mori d'Africa e di Spagna. Ma piuttosto che ricordare tutti gli antecedenti, conviene addentrarsi in questo bosco dove la guerra che infuria per le terre di Francia non si fa udire se non per sparsi suoni di zoccoli o d'armi di cavalieri isolati che appaiono o scompaiono. La prima impressione è che questi cavalieri non sappiano bene cosa vogliono. Un po' inseguono, un po' duellano, un po' giravoltano e sono sempre sul punto di cambiare idea. Prendiamo Ferraù. Lo incontriamo mentre sta cercando di ripescare l'elmo che gli è caduto in un fiume. Quando ecco passa di lì Angelica, di cui egli è innamorato, inseguita da Rinaldo. Ferraù smette di cercare l'elmo e duella con Rinaldo. Nel bel mezzo del duello, Rinaldo propone all'avversario di rimandare la contesa e di inseguire insieme la fuggitiva. Ferraù smette di duellare e si dà all'inseguimento d'Angelica, d'amore e d'accordo col rivale. Perdutosi nel bosco, si ritrova sulla riva del fiume dove gli era caduto l'elmo. Interrompe la ricerca d'Angelica e si rimette alla ricerca dell'elmo. Dal fiume esce il fantasma d'un guerriero da lui ucciso, che rivendica l'elmo come sua proprietà, ed esorta Ferraù, se proprio vuole ornarsi d'un cimiero sopraffino, a conquistarsi in battaglia l'elmo di Orlando. Al che Ferraù lascia fiume, elmo, fantasma e fuggitiva e si lancia alla ricerca d'Orlando. Sulla riviera Ferraù trovosse, di sudor pieno e tutto polveroso. Dalla battaglia dianzi lo rimosse un gran disio di bere e di riposo. E poi, malgrado suo, quivi fermosse, perché dell'acqua ingordo e frettoloso l'elmo nel fiume si lasciò cadere, né l'avea potuto anco riavere. Quanto potea più forte ne veniva, gridando la donzella ispaventata. A quella voce salta in sulla riva il saracino e nel viso la guata, e la conosce subito ch'arriva, benché di timor pallida e turbata, e sia in più dì che non udì novella, che senza dubbio è lei Angelica bella. E perché era cortese e n'avea forse non men dei due cugini il petto caldo, l'aiuto che potea tutto le porse. Pur come avesse l'elmo, ardito e baldo, trasse la spada e minacciando corse, dove poco di lui temea Rinaldo. Più volte s'eran già non pur veduti, ma al paragon dell'arme conosciuti. Cominciar quivi una crudel battaglia, come a pie si trovar, coi brandi ignudi, non che le piastre e la minuta maglia, ma i colpi lor non reggerian gli incudi. Or, mentre l'un con l'altro si travaglia, bisogna al palafren che il passo studi, che quanto può menar delle calcagna, colei lo caccia al bosco e alla campagna.

senza risposta a bocca chiusa. Ma la vergogna il cor sì gli trafisse che giurò per la vita di Lanfusa non voler mai ch'altro elmo lo coprisse se non quel buono che già in Aspromonte trasse del capo Orlando al fiero Almonte. E servò meglio questo giuramento che non avea quell'altro fatto prima. Quindi si parte tanto malcontento che molti giorni poi si rode e lima. Sol di cercare è il paladino intento, di qua, di là, dove trovarlo stima. Altra ventura al buon Rinaldo accade, che da costui tenea diverse strade. Non molto va Rinaldo che si vede saltare innanzi il suo destrier feroce. «Ferma, baiardo mio, deh, ferma il piede, che l'esser senza te troppo mi nuoce!» Per questo il destrier sordo a lui non riede, anzi, più se ne va sempre veloce. Segue Rinaldo e d'ira si distrugge, ma seguitiamo Angelica che fugge. Fugge tra selve spaventose e scure, per lochi inabitati, ermi e selvaggi. Il muovere delle frondi e di verzure, che di cerri sentia, d'olmi e di faggi, fatto le avea con subite paure trovar di qua di là strani viaggi. Cad ogni ombra veduta o in monte o in valle, temea Rinaldo aver sempre alle spalle. Angelica, addormentata in un cespuglio di rose, sospira. Ossia, sogna di sospirare e al sospiro si risveglia. Ossia, sente, sveglia, un sospiro che non è il suo sospiro. Ossia, mentre lei dormiva, qualcuno sospirava lì vicino. Angelica scruta tra gli arbusti e vede un guerriero enorme, dai lunghi baffi spioventi, armato di tutto punto, che se ne sta sdraiato come lei dall'altra parte del cespuglio, la guancia posata su una mano, e lamentandosi mormora delle frasi senza senso. La verginella, la rosa. Sta parlando di rose, questo pezzo di soldataccio. Annusa una rosa appena sbocciata e dice che sarebbe un peccato coglierla, che una volta spiccata dal suo stelo perde ogni valore. A lui sfortunato capita così ogni volta, che le rose le colgono sempre gli altri. Ma sarà poi proprio vero che la rosa già colta perde di valore? E perché lui allora non riesce a dimenticarla? A questo punto Angelica lo riconosce. È un altro dei suoi spasimanti, Sacripante, re di Circassia. E tutta questa storia delle rose è un discorso su di lei. Sacripante continua a essere innamorato della bella Angelica, ma è convinto che mentre lui era in Oriente in missione militare, Orlando l'abbia fatta sua. Angelica considera la situazione. È sola tra insidie d'ogni genere. Ha bisogno di qualcuno che la accompagni e protegga. Quando aveva come scudo la damantina virtù di Orlando, era riuscita a non farsi sfiorare da lui nemmeno con un dito. Ora proporrà a Sacripante di servirla come altrettanto casto paladino. Questa storia della castità di Angelica poteva pur essere vera, certo era poco credibile per chi non fosse storditamente innamorato come il re di Circassia. Comunque non è questo il nocciolo della questione. Rose o non rose, quello d'Angelica e Sacripante è l'incontro di due persone che calcolano freddamente le proprie mosse. Lei vuole servirsi di lui e perciò lo illude. Lui vuole approfittare subito del vantaggio in cui si trova. Infatti Sacripante non ha nessuna intenzione di seguire l'esempio di Orlando e lasciarsi scappare l'occasione. Corrò la fresca e mattutina rosa. E il soldataccio ricomincia a delirare sulle rose, come fa ogni volta che è rapito da pensieri di tutt'altro genere. Qual pargoletta o damma o capriuola che tra le fronde del natio boschetto alla madre veduta abbia la gola stringer dal pardo o aprirle il fianco o il petto

corrò la fresca e matutina rosa che, tardando, stagion perder potria. So ben che a donna non si può far cosa che più soave e più piacevol sia, ancor che se ne mostri disdegnosa, e talor mesta e flebil se ne stia. Non starò per repulsa o finto sdegno, ch'io non adombri e incarni il mio disegno. Così dice egli, e mentre s'apparecchia al dolce assalto, un gran rumor che suona dal vicin bosco gli intruona l'orecchia, sicché malgrado l'impresa abbandona e si pon l'elmo, ch'avea usanza vecchia di portar sempre armata la persona. Viene al destriero e gli ripon la briglia, rimonta in sella e la sua lancia piglia. Abbiamo trasmesso la prima puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.